we're gonna have fun. Yes. Good Rocking Tonight. Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare, ben sintonizzati a voi e bentornato alla Faulisi, assente giustificato da un bel quarto di secolo abbondante. Bentornato con una proposta musicale che chi mi conosce da qualche tempo a questa parte sa cosa vado proponendo: del buon, vecchio, sano, intramontabile rock and roll. Questo è quanto andrà in onda tutte le settimane a partire da quest'oggi, dalle 23:35 sulle frequenze di Radio Popolare, e non si attingerà esclusivamente da quel periodo d'oro meraviglioso, davvero indimenticabile, che sono i primi anni, dal primi anni 50 fino a circa il 1959. No, si andrà anche più indietro, salti carpiati a ritroso, fino ad ascoltare le vecchie cose che hanno in qualche maniera contribuito direttamente o indirettamente alla nascita del rock and roll proprio negli anni 50. Quindi si andrà a immergere i piedi nelle paludi della Louisiana, si farà un giro nel delta del Mississippi, si andrà ad ascoltare musica in tutti quei juke joint dove i neri del sud-est amavano esibirsi e bere qualcosa di forte, e dalla parte dei bianchi si farà qualche giro sulle colline dei Monti Appalachi per ascoltare la musica hillbilly e poi che dire, quella che poi diventerà in seguito hillbilly boogie, influenzata proprio dal boogie, e che quindi si trasformerà da lì a poco in rock and roll. Si andrà anche in Texas ad ascoltare del western swing, un meraviglioso mix di sonorità che hanno a che fare con il blues, con lo swing naturalmente, e con la western music, quindi con la country music. Si ascolterà naturalmente tanto rock and roll attuale. Con cosa iniziare? E con chi iniziare soprattutto? Direi con una canzone che possa dimostrarsi significativa. Ce ne sono tante nel periodo degli anni 50, una alla quale, voi capirete, sono particolarmente affezionato, è questa, una delle tante prese in prestito dal repertorio dei neri e poi eseguita da un bianco, ed è un titolo davvero, davvero riuscitissimo, è Good Rockin' Tonight. Well, I heard you knew that goods are rockin' tonight. Well, I heard that the goods are rockin' tonight. I'm gonna hold my baby as tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard you knew there's goods are rockin' tonight. I say, oh, me and Reed behind the bar, don't you be afraid, and I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good to rocking tonight. Rock, rock, rock, we're gonna rock. Good Rockin' Tonight, proprio quella canzone che dà il titolo a questa trasmissione, Good Rockin' Tonight, e l'avete riconosciuto, era il primo Elvis, era il lontano 1954, eseguiva una canzone di Roy Brown, in seguito ripresa, che anzi portata al successo nel 1948, il brano originale era del 1947, nel 48 lo portò al successo un altro nero che aveva maggiore appeal, era un bellissimo uomo che spaccava i cuori alle donne, il suo nome era Wynonie Harris, e poi nel 54 arrivò Elvis a farne un brano per bianchi, nel 1954 una delle dei primi brani rock and roll inciso per quella Sun Records di Memphis, quella Sun Records di Sam Phillips, che sfornerà i più grandi talenti degli anni 50 o alcuni di essi. Questa sera è semplicemente così, senza bussola, né dal punto di vista geografico né dal punto di vista cronologico, ci facciamo una bella scorpacciata, e altro non deve essere considerato che un vero e proprio aperitivo, un antipasto per che faccia così capire come andranno le cose durante questa Good Rockin' Tonight. Ben sintonizzati su Radio Popolare, un salto questa volta vicino a noi, fino al 1992, a scoprire un artista che normalmente esegue dell'ottima country music, ma quando fa rock and roll, allora... Travis Street, Trouble. Watching everybody else having fun. Well, I don't miss much if it happens on the dance hall floor. Mercy, look what just walked through that door. Well, hello, T-R-O-U-P-L-E. Tell me what in the world you're doing there. When it's a skid, mama had a time to raise 9 kids. She told me not to stare, cause it was impolite. She did the best she could to try to raise me right. But mama never told me about nothing like a wild you. And your mama must have been another good looking honey too. Hey, hey, good another low-K-I-N-G. Well, I smell T-R-O. They walking, honky talking, baby. The men are gonna love you and the women gonna hate you. Reminding them of everything they're never gonna be. Maybe the beginning of a World War III. Cause the world ain't ready for nothing like a wild of you. I bet your mama must have been another good looking mama too. Hey, say hey, good hell of a low K-I-N-G. Well, I smell T-R-O. Grinta era Grinta. Il suo nome è Travis Street. Segnatevelo da qualche parte. Travis Street, dicevo, che fa country music a Nashville, lui arriva dalla Georgia. Arriva dalla Georgia, e dalla Georgia andiamo ancora più a sud, ad affondare i nostri piedi in quelle paludi di cui parlavo all'inizio della trasmissione, e ci andiamo ad ascoltare forse il personaggio, per quanto riguarda il rhythm and blues e per quanto riguarda il rock and roll degli anni 50, più famoso di tutti i tempi. E sì, avete capito, faceva rock and roll ancora quando non l'avevano ancora cominciato cominciato a chiamarlo rock and roll. Era il 1949 quando incideva la sua, una dei primi successi, era intitolato The Fat Man, e già, proprio lui è Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? I still feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Shame, quella in The Shame del 1955, che entrerà nella, far parte nella, della colonna sonora, della mitica colonna sonora del film American Graffiti. Era il 1955, già grande esperienza alle spalle, già da lungo tempo collaboratore di Dave Bartholomew, ovvero il, un band leader, arrangiatore e autore, e ha suonato per Fats Domino, ma anche per un'altra mezza tonnellata di grandi musicisti del periodo, proprio nella, in quella New Orleans degli anni 50, anni 40. E ora eravamo in Georgia con Tritt. Io direi a questo punto di andare a trovare un musicista, che si chiama, un cantante proveniente dalla Georgia, quello che si è per da sempre autocelebrato e autoincoronato re del rock and roll. Sì, avete capito, stiamo parlando di Little Richard, ma Little Richard, che vorrei farvi ascoltare con Keep on Knocking But You Can't Come In, vorrei precederlo con una canzone, con un'altra versione di questo brano, che è datata addirittura 1939. Louis Jordan and the Timpani Five. But you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try again. Keep a but you can't come in. I know you've been drinking gin. You've been cheating around with other men. I'm busy and you can't come in. Se si può definire il re del rock and roll come amava autodefinirsi Little Richard, il re del rock and roll, certamente Louis Jordan era il re del jive. Eravamo nel lontano 1939 con Keep on Knocking But You Can't Come In. Lasciamo trascorrere qualche anno e arriva il 1957. Little Richard. Keep on knocking but you can't come in. Questa ritenetela pure la versione definitiva, sì, perché qualcuno ha provato a inciderla anche dopo, ma senza aggiungere nulla. Grande cambiamento dalla versione del 1939 a quella del 1957 di Little Richard, ma in quanto invece a energia, forse i Blasters sono riusciti a fare qualcosa, sono riusciti ad aggiungere qualcosa. Non ne avete abbastanza di Keep on Knocking But You Can't Come In, vi capisco, e allora eccola. I Blasters, anche loro a Good Rockin' Tonight. I Blasters li abbiamo ascoltati nel 1982, esattamente nel 1982, una versione live registrata in Inghilterra, un quartetto, quello dei Blasters, veramente che si può definire una delle più importanti, una delle più forti e potenti formazioni di rock and roll di tutti i tempi. Si sono riformati dopo una lunghissima pausa qualche anno fa e hanno inciso ancora con forse un pochino minore energia, ma che volete, il tempo li ha provati e quindi il bravo Phil Alvin, anche se grintoso ancora oggi, non certo come nel 1982. E ora torniamo nella Memphis che abbiamo già ascoltato, nella Memphis di Elvis Presley, suoi contemporanei, Johnny Burnett Trio. Sì, Johnny Burnett Trio, e ci riascoltiamo anche ancora una volta una canzone che arriva dal repertorio del Rhythm and Blues dei Neri, Teeny Bradshaw. È la versione originale, l'aveva incisa lui, un band leader che faceva del appunto del Rhythm and Blues e delle cose decisamente ballabili, un blues decisamente ritmato. E Johnny Burnett Trio era formato da due fratelli e un chitarrista, sentitelo un po', davvero spaziale. Il suo nome era Paul Burleson. The train kept rolling. Rock and Roll Trio nel 1956 con un brano anche questo proveniente dal repertorio di artisti Rhythm and Blues. Dicevo, Teeny Bradshaw lo incideva 5 anni prima, nel 1951. Loro arrivano nel 1956, nel bel mezzo di una carriera brevissima. Era il 1955 quando si misero assieme i due fratelli, Dorsey Burnett e Johnny Burnett, con l'amico chitarrista Paul Burleson, che dicevo chitarrista spaziale, anche tecnicamente, ma soprattutto come approccio, che era un chitarrista molto molto violento, così come violenta era la proposta musicale del Rock and Roll Trio, che ebbe vita breve dal 1955 al 1957. Nel 57 si sciolsero e Johnny Burnett raggiunse un successo personale come artista individuale intorno alla fine degli anni 50 particolarmente e nei primi anni 60. Nel 1964 scomparve e lasciò davvero un vuoto, perché le canzoni di Johnny Burnett, particolarmente quelle registrate nel periodo con il Rock and Roll Trio, sono qualcosa di veramente genuino che rappresenta il meglio del rock and roll, del rockabilly anni 50. Oltre a una manciata di canzoni, fortunatamente ci ha lasciato un figlio che si chiama Rocky Burnett, e che anche lui fa dell'ottimo rock and roll. Thank you. come to my house and flap that bone. Take my baby away from home. Cover that poor door where he been. Up your house and gone again. Oh dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Lo avete riconosciuto, non c'è dubbio, era lui. Era Bo Diddley, anche lui non poteva mancare, doveroso tributo alla musica e al personaggio di Bo Diddley. Bo Diddley lo abbiamo ascoltato con un brano anonimo, amava autocitarsi e lo faceva sempre con grande originalità e autoironia. Bo Diddley, forse uno dei più originali, uno degli stilisti più importanti e particolari che la storia del rock ci abbia consegnato e che ci ha lasciato poco tempo fa. Era esattamente il 2 di giugno, esattamente a 80 anni ci lasciava Bo Diddley, che abbiamo ascoltato in questa Good Rockin' Tonight che ascolterete al mercoledì dalle 23.35 dalle frequenze di Radio Popolare. Maurizio Faulisi al microfono e sono già volati quasi 40 minuti, credo di avere qui ancora qualcosa di interessante da farvi ascoltare, quindi non abbiate paura, avvicinatevi, alzate il volume e ballatevi, perché no, questa Crazy Man Crazy. Era il 1953, Bill Haley, non più giovanissimo già nel 1953, Crazy Man Crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh, man, that music's gone, gone. Said crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh, man, that music's gone, gone. When I go out, I want a treat, find me a man with a solid beat. Take my chick and we dance about. When they start rocking, boy, we start to shout, shout. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. They play it soft, they play it strong. They play it wild and they play it long. They just keep playing till they break it down. Them rocking on, you gotta say. It's crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone. Crazy, crazy, crazy man. Man Crazy, Bill Haley e i suoi Comets, che aveva denominato così da poco tempo, si chiamavano Settlemen prima e eseguivano Western Swing, un po' di boogie, e poi quando ormai scoppiò il rock and roll e quanto contribuì il buon Bill Haley a far scoppiare il rock and roll, tutti lo sappiamo, pensiamo soltanto a quella canzone che ha venduto quanti milioni di disco, abbiamo perso il conto, mi riferisco naturalmente a Rock Around the Clock. Lui faceva Western Swing già molti anni prima, e quando arrivò il rock and roll era avanti con l'età, non aveva quel sex appeal di tanti personaggi, tanti colleghi decisamente più giovani e più attraenti, e lui era un tipo pacato, almeno nell'aspetto, poi in realtà infiammava i palchi pure lui. Questa era Crazy Man Crazy, ed è come Bastian Contrario, ho voluto farvi ascoltare una canzone che usciva dal suo repertorio e stranamente è stata ripresa da un personaggio nero che portava il nome di Lucky Enoa, era di Kansas City, faceva jazz, è uno dei tanti personaggi che negli anni 50 e fine anni 40 dal jazz passarono al rhythm and blues, perché ci si faceva più soldi, insomma, con il rock and roll, visto che era una musica molto attuale che stava andando decisamente forte. Ecco, quindi la canzone di un bianco ripresa da un nero, lui Bill Haley, che di canzoni tratte dal repertorio di neri ce ne ha proposte davvero tantissime, che dire, Shake, Run and Roll, Flip, Flap and Fly, ecco per esempio Flip, Flap and Fly, Flip, Flap and Fly. Oh, arriva anche lui, Big Joe Turner. I get the blues, I get me a rocking chair. When I get the blues, I get me a rocking chair. Well, the blues overtake me, gonna rock right away from here. Now when I get lonesome, I jump on the telephone. When I get lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell him on my way back home. Now flip, flop and fly, I don't care if I die. Now flip, flop and fly, I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Give me one more kiss, hold it a long, long time. Give me one more kiss, hold it a long, long time. Now love me, baby, do the feeling, hit my head like wine. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Here comes my baby, flashing a new gold tooth. Well, she's so small, she can mumble in a payphone booth. Now flip, flop and fly, I don't care if I die. Now flip, flop and fly, I don't care if I die. I don't ever leave me, don't ever say goodbye. Mississippi bulldog sitting on a hollow stump. I'm like a Mississippi bulldog sitting on a hollow stump. I got so many women, I don't know which way to jump. Now flip, flop and fly, I don't care if I die. Now flip, flop and fly, I don't care if I die. Now don't ever leave me, don't ever say goodbye. Oh my. Oh Oh my, flip, flap and fly. Questo signori miei, portava il nome quest'uomo di Big Joe Turner. Eravamo nel 1955, registrata a New York City. Big Joe Turner, uno dei più grandi shouter di tutti i tempi, ha cantato fino alla fine con il suo timbro fortissimo. Ricordo un bell'album con i Roomful of Blues che emoziona e non poco ascoltarlo anche avanti, molto avanti con l'età. Qui eravamo nel 1955 e lui con il rock and roll ci sapeva fare. In realtà faceva rock and roll dalla fine degli anni 30, perché sì, era rock and roll anche quello che eseguiva con Pete Johnson, il grande pianista boogie, shouter, un grande shouter, dal grande Big Joe Turner a un personaggio decisamente molto meno famoso, di nicchia, un personaggio che in pochi conoscono e che voglio sperare che lo apprezziate anche voi, perché sta per partire una canzone di Wayne Hancock. Davvero cambiamo zona geografica, cambiamo anche con la nostra macchina del tempo, ce ne andiamo dritti dritti verso il 1997 a Austin, Texas. Sto parlando quindi di Wayne Hancock, un personaggio strano, un personaggio un po' particolare, un personaggio che ama fare un bel mix di musica, come spesso succede a Austin. E lui, diciamo che è un artista country, ma fortemente influenzato dagli anni 50, e ci butta dentro anche del buon swing di tanto in tanto. Qualcuno addirittura ha azzardato a dire che è un po' l'erede di Hank Williams, e io credo che quel qualcuno tutti torti non abbia. Ce l'ascoltiamo con una canzone che forse non ricorda tantissimo Hank Williams, ma certamente ci ricorda quanto importante il western swing, e ce lo ricorda con That's What Daddy Wants e Wayne Hancock. Wayne Hancock, avete capito? Wayne Hancock. veramente spassoso, no? Questo Wayne Hancock, brutto, sporco e cattivo come vuole la migliore tradizione dei musicisti che fanno queste cose. No, va, no, sto scherzando. Però m'han detto chi l'ha conosciuto personalmente, m'han detto che è un tipo un po' bizzarro, un po'. Ma più che bizzarro, un tipo chiuso e scontroso, è un tipo molto particolare, ma tanto scontroso quanto geniale nel riproporre la, diciamo, sintetizzare la, diciamo, gli stili, vari stili anni 50, quindi qui l'avete sentito, insomma, una bella fusione di generi. Sembrava di essere un po' a New Orleans con del Dixieland, sembrava di essere nel Texas di Bob Wills, ma anche country music, ma anche rock and roll. Insomma, tutto questo è la proposta musicale di Wayne Hancock. Questa è Radio Popolare, ancora qualche minuto con Maurizio Faurisi e la sua Good Rocking Tonight. E a questo punto diventa davvero difficile, perché la scaletta è andata creandosi così, improvvisando, e al mio fianco un po' di dischi che vorrei mandare tutti quanti in onda, ma avremo tempo nelle altre trasmissioni. Ma in questa prima trasmissione, in questo debutto di Good Rocking Tonight a Radio Popolare, forse, Jim Vincent, Buddy Holly, Eddie Cochran, Chuck Berry, insomma, ce ne sono davvero tanti. E quindi io voglio proprio davvero sperare di rincontrarvi su queste frequenze mercoledì prossimo, ancora alle 23:35. Godiamoci questi ultimi minuti tornando a Memphis, Tennessee, nel stesso periodo in cui abbiamo ascoltato Elvis Presley, quindi metà anni 50, anzi qualche anno dopo, quei 3 anni che sono serviti a Elvis per fare le valigie e andarsene a far soldi nella RCA. Lasciava alle sue spalle la Sun Records e alle sue spalle lasciava i vecchi amici, quindi Roy Orbison, Johnny Cash, Carl Perkins, Warren Smith e Jerry Lee Lewis. E su Jerry Lee Lewis, che Sam Phillips puntò tutte le sue carte quando Elvis venne ceduto alla RCA nel 1956, e aveva ragione, perché delle belle soddisfazioni gliele ha date Jerry Lee Lewis a Sam Phillips, almeno fino al 1957-58, fino a Breathless, quella canzone che ci andiamo ad ascoltare, che fu l'ultimo grande successo di Jerry Lee Lewis, fino a quando non ebbe la malsana idea di andare in tournée in Inghilterra portandosi la neo sposa tredicenne, che tra l'altro era tredicenne o quattordicenne, così, comunque credo intorno a quell'età, che era tra l'altro, era dettaglio non del tutto trascurabile, era anche sua cugina, cosa abbastanza normale nel sud-est degli Stati Uniti a quei tempi, non molto nell'Inghilterra degli anni 50, insomma, la sappiamo la storia, lo distrussero e tornò negli Stati Uniti dove venne boicottato, e quindi, questa è un'altra storia. Ci ascoltiamo Breathless e Jerry Lee Lewis, e lui, il killer. If I can hold you, then let me squeeze. My heart goes round and round. My love will tumble me down. You leave me restless. Well, I shake all over, and you know why. I'm sure it's love, honey, that's no lie. Cause when you call my name, you know I burn like wood in flame. You leave me breathless. Ooh, baby. Ooh, crazy. You're much too much. Honey, I can't love you enough. It's all right to hold on tight. But we need you to love me right. Oh, come on, baby, now don't be shy. This love was meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I'm gonna be wherever you go. You have left me breathless. Oh, me right. Well, come on, baby, now don't be shy. Love was meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I'm going to be big wherever you go. You leave me. Breathless. Breathless. E questo era il nostro Jerry Lee Lewis. Un'ora è volata davvero velocemente, rimane spazio per un brano che probabilmente non riusciremo neanche a ascoltare per intero. Giusto il tempo dei saluti per dirvi che potete scrivermi nei prossimi giorni. In questi giorni verrà attivata una casella postale Radio Popolare, ma nel frattempo potete scrivermi a maurizio@rockfamily.it. Ah, naturalmente un grande saluto a Rock Family. E vai con Buddy Holly. Grazie per il gentile ascolto e a presto sulle frequenze di Radio Popolare. Tell me maybe that someday we'll all be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day.